Mamma ha avuto un'idea per smuovere, però ce la teniamo noi. Poi andatela a chiedere a lei se siete curiosi. Vi tolgo subito il dubbio, non è niente di grave, un infortunio sul lavoro, mi hanno riattaccato il tendine e ritornerà tutto come prima. Chiusa la parentesi, va bene, ecco, così siamo a posto. Quello che faremo questa mattina invece è molto più interessante, molto più importante. E io vorrei che noi guardassimo, scoprissimo qualche cosa riguardo a un discepolo che è noto solo per un episodio, e viene spesso bistrattato e preso a indice come, diciamo, uno di poca fede. Chi è questo? Tommaso, grazie. Vi dovete mettere tutti gli occhiali da sole come già lui, perché evidentemente sono gli occhiali da sole che fanno funzionare. Tommaso, l'apostolo Tommaso era certamente, non è che venga detto molto riguardo a questo apostolo, in effetti ci sono solo tre episodi che parlano di lui, e probabilmente era un pescatore della regione di Galilea, e forse Gesù, in uno dei suoi primi viaggi a Capernaum, lì sul lago, lo ha incontrato, le ha parlato, e Tommaso ha deciso di essere un discepolo di Gesù. Lui è famoso per aver detto: se io non vedo e non tocco, non metto le mani, io non credo. Però dopo di questo la storia parla di un apostolo, Tommaso, che è andato a predicare in Iraq, che è andato a predicare in Iran ed è arrivato fino in India, dove è morto martire. Quindi qualche cosa di buono l'ha fatto veramente. E quindi mi ha incuriosito un poco andare a vedere un poco la storia di Tommaso. Forse avete letto che è scritto di Tommaso che è detto Didimo. E Didimo è la parola che sta per gemello, né più di me. Quindi Tommaso che viene detto gemello. Però alla fine non si sa veramente se lui aveva un gemello o meno. Si pensa che abbia avuto una sorella come gemella, però non è certo. Il fatto certo è che il suo secondo nome era proprio gemello. Dunque, avere un gemello conviene, perché se io avevo un gemello facevo tagliare a lui il dito e io me lo tenevo sano. Però c'è una storia vera. In Germania nel 2009 un uomo, non si sa chi è appunto, se sia Hassan o Abbas, ed era un ladro di grande talento, e in una gioielleria di lusso ha rubato qualcosa come 6,8 milioni di dollari in gioielli. E hanno fatto le indagini, lo hanno scoperto, hanno preso il DNA, però alla fine hanno scoperto anche che aveva un gemello. E siccome la prova del DNA e le prove che avevano non riuscivano a stabilire chi dei due gemelli fosse stato il ladro, li hanno dovuti rilasciare tutti e due e si sono goduti il bottino. Quindi avere un gemello a volte può convenire. Io ho smesso di pensare a Tommaso, detto Didimo, e ho detto Stefano, detto il gemello. Poi non è che suona male, Stefano, detto il gemello, alla fine Stefano sono io, detto il gemello, potrebbe anche andare bene. E poi ho iniziato a riflettere, ho iniziato a pensare. Il fatto che io abbia un gemello non è così lontano dalla realtà, perché molte volte, quasi sempre, di fronte a una situazione c'è una parte di me che vuol fare qualcosa e una parte di me che ne vuol fare tutt'altra cosa. Quindi è proprio come se io avessi, fatemelo dire così, un gemello dentro. E sono stato a riflettere su sto fatto e poi mi sono ricordato che questa non è una cosa che ho avvertito solo io, perché l'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 7, il versetto 15, si esprime in questo modo, dice: io quello che mi succede non lo capisco, perché quello che voglio fare non lo faccio, quello che odio quello faccio. Quindi evidentemente anche lui c'aveva un gemello dentro. E forse non è un sentimento, una situazione estranea alla maggior parte di noi, il fatto che di fronte a una situazione ci troviamo sempre di fronte a una scelta. E la scelta, riflettendo, è quasi sempre la stessa. Almeno per me è questa: fare quello che voglio fare oppure fare quel che devo fare. E sono due cose completamente diverse. Quello che io voglio fare e quello che io invece devo fare. Ma sapete, la scelta tra quello che devo e quello che voglio indica molto chiaramente lo standard della qualità della mia relazione con Dio. È molto, molto veritiero il fatto di poter valutare il valore, la qualità della mia relazione con Dio a come io reagisco di fronte a una situazione nello scegliere quello che devo o quello che voglio. È come trovarsi davanti a un incrocio e dover scegliere la direzione giusta che ci permette di arrivare dove vogliamo. Un esempio pratico di un incrocio strategico è la storia di Giuseppe, che è scritta in Genesi al capitolo 39. Ve la cito così a memoria, molti di voi la conosceranno. Giuseppe era uno schiavo domestico e sapeva fare bene il suo lavoro, lo faceva bene, il suo padrone aveva completa fiducia in lui e aveva lasciato tutto nelle sue mani. Quello che è successo è che la moglie del padrone gli aveva messo gli occhi addosso e gli ha detto: senti, unisciti a me. Queste sono le parole precise. Ha detto: io con te voglio una relazione. E Giuseppe si è trovato di fronte a una scelta. Secondo me la cosa giusta è che doveva scegliere di andare con quella signora. E vi spiego anche il perché. Fino a quel momento i fratelli lo avevano tradito, avevano cercato di ucciderlo. Insomma, la sua vita, da essere una vita normale e buona, era diventata un inferno, fino ad essere uno schiavo. Mo che aveva un'occasione, perché le cose andavano meglio e sarebbero potute andare ancora meglio, la doveva prendere. Baby, onestamente. Però, fortunatamente, Giuseppe l'ha pensata diversamente ed è scappato via. Non ha ceduto a quelle lusinghe. È scappato via. E questo gli ha procurato un sacco di altri guai. Però alla fine della storia possiamo renderci conto che quella scelta in quel momento, come risultato finale, ha avuto che Dio ha benedetto grandemente quel giovane. Lo ha benedetto in una maniera incredibile e attraverso di lui ha salvato la sua famiglia che è diventata il popolo di Israele. Un incrocio pericoloso nel quale Giuseppe ha preso la direzione giusta che ha portato a una grande, grande benedizione. E questo è solo un esempio di quanto è importante che noi facciamo la scelta giusta. Vedete, la scelta basata su quello che voglio risponde ai miei sentimenti, risponde alle circostanze, risponde a quello che mi piace, perché noi in fondo se vogliamo scegliere quello che vogliamo è perché ci sentiamo comodi così. E la Bibbia la chiama concupiscenza ed è scritto: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno quando è tentato, cioè quando sta di fronte a una scelta che deve decidere che cosa deve fare, è tentato dalla sua concupiscenza, dai suoi desideri, che la concupiscenza lo attrae e lo seduce. E poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, partorisce la morte. Questo è il frutto di una scelta basata su quello che voglio, perché è una scelta basata sui miei desideri, sui miei sentimenti, sulle circostanze, su quello che voglio io. Una scelta basata su quello che devo non dipende dai miei desideri, ma dipende dal mio desiderio di allineare la mia volontà alla volontà di Dio. E il risultato di questo allineamento è molto, molto pratico. È un uomo che assomiglia sempre di più a Gesù. È un uomo secondo il desiderio e il cuore di Dio. E in Romani, qualche capitolo dopo, è scritto sempre: quello che brama la carne è morte, mentre quello che brama lo spirito è vita e pace. Se io rispondo e baso le mie scelte su quello che voglio, molto probabilmente questo mi porterà al peccato e alla morte. Se io baso le mie scelte su quello che devo, perché voglio allineare il mio fare, quello che compio alla volontà di Dio, questo porterà nella mia vita pace e gioia. E questo, diciamo, è quello che è venuto fuori dal fatto che veniva chiamato gemello. Ora io credo che molti di noi, forse tutti, abbiamo un gemello dentro. E per quel che mi riguarda, quello che devo fare io è smettere di far vincere il gemello che vuole fare le cose perché gli piacciono e far vincere invece il gemello che deve fare le cose perché è la volontà di Dio, perché questo mi porterà ad essere un uomo secondo il cuore di Dio. Lo scegliere quello che voglio porterà il peccato e la morte. Però torniamo a Tommaso. Di Tommaso si raccontano tre episodi. Il primo è scritto in Giovanni al capitolo 16 ed è nel contesto della resurrezione di Lazzaro. Allora Gesù dice ai discepoli: sentite ragazzi, dobbiamo tornare in Galilea perché aveva avuto la notizia che Lazzaro stava malato. E i discepoli dicono: Gesù, mo siamo venuti dalla Giudea che ci volevano lapidare e tu vuoi andare di nuovo là? E Tommaso è stato l'unico che ha detto: ragazzi, se Gesù va là, anche noi dobbiamo andare là, a costo di morire con lui. Forse l'avrà detto per fatalismo, forse l'avrà detto per pessimismo, però è l'unico che ha dimostrato questo coraggio. L'altro episodio è quello durante l'ultima cena, all'inizio dell'ultima cena. Giuda ha già tradito Gesù, se n'è già andato, e Gesù sta facendo tutto un discorso articolato per consolare i discepoli, per volerli diciamo dare speranza, e gli dice: non vi preoccupate, io andrò, vi preparerò una dimora e poi verrete pure voi con me. Tommaso alza la mano e dice: signore, scusa, ma se noi non sappiamo dove stai andando, come facciamo a sapere la via? Era uno che aveva i piedi per terra, non si lasciava così emozionare facilmente. Però queste parole hanno dato la possibilità a Gesù di dare di se stesso, forse la più bella, almeno per me, la più bella identificazione. Gesù ha detto, in quell'occasione ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non lo so, Tommaso, quanto è riuscito a cogliere di questa espressione, però ha avuto il merito di dargli questa opportunità. Il terzo episodio è probabilmente il più famoso, è quello descritto in Giovanni al capitolo 20. È già avvenuta la crocifissione, Gesù è morto, ma è anche risorto. E qui siamo proprio alla domenica sera, la domenica sera di Pasqua. Quello che è successo è che delle donne che erano lì al sepolcro, che erano andate al sepolcro per imbalsamare Gesù, hanno trovato il sepolcro vuoto. E Gesù gli ha detto: io sono risorto, andate ad avvisare i miei discepoli. E queste donne sono corse ad avvisare i discepoli. Hanno detto: vedete che Gesù non è più nella tomba, che è risorto. Due di loro sono corse e sono andate al sepolcro e sono andate lì e hanno trovato realmente giusto quello che le donne hanno detto. Non c'era più Gesù e Gesù era rimorso. E c'era tutto questo rumors nella città di Gerusalemme per tutta la giornata. Ed era verso sera. Il risultato fino a quel momento di tutte queste notizie era che i discepoli si erano chiusi in una stanza e avevano chiuso a chiave la porta, ed è scritto per paura dei giudei. Cioè loro avevano sentito che Gesù era morto e che era risorto, però non volevano correre il rischio di fare la stessa fine, cioè di morire e poi di dover risorgere. Non è che ci credevano tanto a questo fatto. E per questo motivo erano chiusi nella stanza. E proprio mentre stavano lì, forse decidendo quello che dovevano fare, è avvenuto qualcosa di straordinario. Ed è descritto proprio in Giovanni, al capitolo 20, il versetto 19. Ed è scritto: la sera di quello stesso giorno, la domenica sera, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E detto questo mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. E beh, questo aveva dato un nuovo vigore, una nuova speranza ai discepoli, che erano lì e avevano ricevuto una prova certa, perché il Signore era andato da loro ed erano pronti per testimoniare di questo fatto. Indovinate a chi? A Tommaso, perché Tommaso non era presente quando era andato il Signore. È proprio scritto che lui non c'era. Ed è scritto, qualche versetto dopo, è scritto: or Tommaso, detto Didimo o gemello, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. E gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Non viene detto perché Tommaso non era presente. E possiamo immaginare quello che vogliamo e siamo certi di non sbagliare. Forse aveva qualcosa di importante da fare. Doveva fare un servizio proprio importante, come quei servizi che ci impediscono di venire al culto la domenica, un servizio importante, proprio una cosa che non poteva fare a meno, o semplicemente aveva più coraggio degli altri che erano chiusi lì per paura. Invece lui aveva avuto il coraggio di uscire, di andare, di presentarsi, di stare in mezzo alle persone. Fatto sta che aveva mancato questo appuntamento, aveva mancato questa occasione. E provate a immaginarvi come si è sentito Tommaso quando è rientrato e gli hanno detto: ma dov'è che sei andato? Lo sai che è venuto il Signore a trovarci? Io mi sono fermato a pensare per me stesso. Io come mi sarei sentito? Prova a immaginare tu come ti saresti sentito. Quello è stato uno dei discepoli che da 3 anni, cioè non aveva niente di meno degli altri, perché come tutti gli altri, quando Gesù è morto sulla croce se n'era scappato, quindi non aveva niente di diverso dagli altri, non era né meglio né peggio, era come gli altri. Però fatto sta che Gesù era andato lì e lui non c'era. Allora io ho immaginato che mi sarei arrabbiato, ma mi sarei arrabbiato assai. Mi sarei arrabbiato prima con Gesù. E beh, è chiaro, dici: come Gesù, lo sai che io non ci sto e tu vai. Cioè, non potevi aspettare un poco, non potevi aspettare una mezz'oretta, non potevi aspettare domani mattina, tanto. Cioè, sei risorto, non è che c'hai fame, c'hai sonno, c'hai sete, devi andare a qualche parte, non c'hai niente da fare. Potevi aspettare che stavo io. È logico il ragionamento. Mi sarei arrabbiato anche coi discepoli. A dir come? E voi non avete trattenuto Gesù, non gli avete detto: Gesù, vieni più tardi che sta anche Tommaso. Cioè mi sarei arrabbiato con Gesù e con i discepoli. Per questo io non trovo tanto strana la risposta che Gesù, che Tommaso ha dato ai discepoli. Perché lui era deluso, amareggiato, era arrabbiato. E lui ha risposto: se io non vedo nelle sue mani, cioè non vedo nelle mani di Gesù il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. In fondo stava rivendicando solo la stessa chance che gli altri avevano avuto, né di più e niente di meno. Quante volte è successo che noi siamo rimasti delusi da quello che il Signore ha fatto? Siamo rimasti amareggiati, siamo rimasti arrabbiati, perché in fondo il Signore non aveva fatto come abbiamo detto noi, aveva fatto come ha detto Lui, e questo ci ha fatto venire rabbia dentro. O quante volte abbiamo pensato di aver mancato l'appuntamento della nostra vita, di aver perso la chance più importante che avevamo. Vedete, ci sono degli episodi nella nostra vita nella quale noi ancora oggi possiamo recriminare e dire: se non avessi fatto così, o se avessi detto così, o se avessi, se non avessi, o se avessi. E questo tutto che riguarda il passato. Ci sono degli episodi sui quali noi possiamo ancora recriminare, sui quali possiamo essere ancora arrabbiati, sui quali possiamo avere ancora amarezza, possiamo avere ancora delusione. Ci sono degli episodi che possono compromettere tutto. O una scelta che ci fa fare un salto di qualità, o una scelta che ci mette a tappeto, una scelta che ci squalifica completamente. Tutti questi sentimenti erano nel cuore di Tommaso. Così si sentiva Tommaso. E io credo che ognuno di noi questa mattina sa di che cosa stiamo parlando, perché ognuno di noi ha avuto delle delusioni, delle amarezze. Ognuno di noi ha fatto delle scelte sbagliate. Forse Tommaso semplicemente si era andato a fare una camminata perché era coraggioso, ma quella camminata gli è costata quella chance. E forse noi abbiamo fatto delle scelte che ci hanno compromesso, o che pensiamo che abbiano compromesso quello che è il nostro futuro, quello che ci sta dinanzi. Comunque sta di fatto che dopo una settimana Tommaso stava ancora lì. Io ho provato a immaginare quella settimana. Sarà stata una settimana difficile per Tommaso. Se mi dovessi immaginare io al posto di Tommaso, o era una settimana di discussioni, o era una settimana di completo silenzio, di dire: ok, lasciatemi perdere, io non ne voglio sapere più. E probabilmente io, se fossi stato al posto di Tommaso, me ne sarei andato. Avrei pensato: beh, ma io che sto a fare qua? Gesù ha scelto di farsi vedere da loro quando io non c'ero, significa che io non valgo niente, mo me ne vado. Questo è quello che io avrei pensato. Però forse l'ha pensato pure Tommaso. Però era lì. Forse Tommaso in questa occasione non ha scelto quello che voleva fare, andarsene. Ha scelto quello che doveva fare, rimanere. E sapete che cosa è successo? Che Gesù ha concesso il bis. E lo ha concesso solo ed esclusivamente per Tommaso. È scritto in Giovanni, al capitolo 20, al versetto 26. 8 giorni dopo, era di nuovo domenica, i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. E Gesù venne a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi, esattamente quello che avevo fatto una settimana prima. Poi disse a Tommaso, ecco perché noi capiamo che lo ha fatto solo per Tommaso. Poi disse a Tommaso, porgi qua il dito e guarda le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo, ma credente. C'è qualcosa di importante. Se tu rimani fedele, se tu continui a credere, Gesù concederà il bis solo per te. Gesù non mancherà di rivelarsi solo a te, perché ti ama esattamente come ama tutti gli altri. E forse questa storia è andata così proprio per questo motivo, perché questa mattina noi potessimo apprezzare questo fatto, che Gesù ama tutti. E Gesù non si impressiona della delusione o dell'amarezza o del sentimento o della vergogna o del senso di inadeguatezza o del fallimento. Gesù non si impressiona di tutte queste cose e concede a tutti una nuova chance. A tutti. E c'è qualcos'altro. Dio non dimentica le promesse che ha fatto. E Dio non quota a ribasso il piano che ha con la mia e con la tua vita perché abbiamo mancato un appuntamento, perché non eravamo presenti o non eravamo al momento giusto, al posto giusto. Dio non quota a ribasso tutto questo, ma Dio rivaluta tutto questo e dà a ognuno una nuova chance. Quando ha detto a Tommaso, Tommaso, metti qua le mani, metti qua, prova, vedi, sono io e sono tornato solo per te. Mentre è scritto che una settimana prima i discepoli hanno scritto, veduto questo, si rallegrarono, proprio, forse i discepoli, ma no, vediamo, vediamo, e poi si sono rallegrati. Di Tommaso non è scritto. Non è scritto che lui abbia reagito mettendo la sua mano, mettendo il suo costato. Lui ha fatto una proclamazione straordinaria, ma in quel momento ha capito che il Signore gli stava dando un'altra chance. Quello che tu adesso senti nel cuore tuo, quello che tu adesso vedi con gli occhi del tuo spirito, è la chance che Dio ti sta dando, né più e né meno. E tu sei qui questa mattina per questo motivo, e Gesù è qui questa mattina per questo motivo. Come Tommaso era lì e Gesù è andato a trovarlo, allo stesso modo questo appuntamento, questa mattina, è un appuntamento divino affinché tu e io possiamo avere un'altra chance proprio su quello che ci fa più dolore, proprio su quello che ci amareggia di più. E Gesù ha detto, non essere incredulo, ma credente. Che cosa rispondiamo a Gesù? Come gestiamo i sentimenti che stanno dentro di noi? La risposta di Tommaso è stata qualcosa di straordinario, è stata un'espressione inedita, non era mai stato detto fino a quel momento. Adesso quello che sto per dire sono delle parole che noi siamo abituati a sentire e che reputiamo normali. Tommaso ha detto, Signore mio e Dio mio, Signore mio e Dio mio. Ma fino a quel momento nessuno aveva mai detto a Gesù, Dio mio. era stato il Signore, era stato il Figlio di Dio, ma è la prima volta in assoluto che viene riconosciuto tale e quale Dio. Questa è stata la risposta di Tommaso alla rivelazione di Gesù. Signore mio, Dio mio. Gesù non vuole essere il Signore. Gesù vuole essere il mio Signore. E vedete, in queste parole è racchiusa una grande adorazione, ma è racchiusa anche una grande arresa. Una grande arresa. Quella rabbia, quell'amarezza, quella delusione, Tommaso le stava arrendendo a Gesù. Ogni risentimento e ogni dubbio lo stava arrendendo a Gesù. Siamo disposti a pronunciare noi, per noi stessi, queste parole, Signore mio e Dio mio, con la stessa adorazione e con la stessa arresa? Sapete, questo fa la differenza nella nostra vita, perché se noi siamo completamente arresi, quando dobbiamo scegliere tra quello che dobbiamo e quello che vogliamo, non abbiamo dubbi, perché ci siamo arresi a Gesù e sappiamo che dobbiamo scegliere quello che dobbiamo, perché vogliamo allineare la nostra identità alla sua, la nostra volontà alla sua. Perché Gesù è il mio Signore, è il mio Dio, io non avrò difficoltà di fronte a un incrocio a scegliere quello che devo, e devo perché ho scelto che Gesù è il mio Signore, che Gesù è il mio Dio. Se invece ho delle riserve dentro di me, allora posso guardare all'opzione di quello che voglio. Ma se io sono disposto questa mattina, se tu sei disposto questa mattina a fare tue queste parole, Signore mio, Dio mio, e a crederci e a pagare il prezzo perché queste parole siano vere, alla prossima scelta tu avrai più forza, più determinazione. Io avrò più forza, più determinazione per scegliere quello che devo. E non scegliere quello che voglio. E sapete, degli uomini e delle donne che scelgono quello che devono per allineare la loro volontà alla volontà di Dio, diventano degli uomini e delle donne secondo il cuore di Dio. E questo produce delle famiglie secondo il cuore di Dio. E questo produce una Chiesa che vince per la gloria di Dio. Dio ha detto, Gesù ha detto, nella sua parola è scritto, non l'ha detto né Dio né Gesù, l'ha detto l'Apostolo Paolo, nella sua parola è scritto che Gesù verrà a prendere la sua Chiesa pura, perfetta, immacolata e senza ruga. Pura, perfetta, immacolata e senza ruga. Diventa una Chiesa che è fatta di persone, di uomini, di donne, di giovani, di ragazzi, di bambini che scelgono quello che devono perché amano Dio e non si lasciano incantare o convincere da quello che vogliono, perché il risultato di quello che voglio è il peccato e la morte, il risultato di quello che devo è la pace e la gioia. Io ho tanto apprezzato questa storia e non l'avevo mai vista sotto questa chiave e ho rivalutato per me stesso Tommaso, il discepolo, perché in qualche modo ha contribuito a creare questa situazione, a creare questo specchio davanti al quale tu e io ci possiamo guardare. E Gesù questa mattina dice a me e a te, vieni, vieni a vedere i buchi che ho. E sii credente e non incredulo. E sapete, con questo voglio concludere. In altre parole, Gesù ha detto a Tommaso e sta dicendo a me e a te: vedi che io tutto quel che avevo da fare ho fatto. Non ti aspettare più di tanto. Quello che avevo da fare ho fatto. Sono morto e sono risorto. Adesso dipende da te. Sii credente. E questo farà la differenza nella nostra vita e ci renderà quegli uomini, quelle donne, secondo il cuore di Dio. È alla mia portata, è alla tua portata, perché questa è la grazia di Dio. Vogliamo alzarci in piedi e pregare? Signore Gesù, io ti voglio ringraziare per questa storia e per come è andata, perché questo mi fa vedere l'amore che tu hai per me, l'amore che tu hai per noi, e mi fa vedere anche la possibilità che io ho, che noi abbiamo, di cambiare il nostro cuore, di cambiare la nostra posizione. E se fino adesso abbiamo detto: se io non vedo, non credo, adesso possiamo dire: Signore mio e Dio mio, e io ti prego che il tuo amore, la tua grazia e l'opera dello Spirito Santo questa mattina siano completi nei nostri cuori e possano piegare ogni nostro dubbio, vincere ogni resistenza, affinché noi possiamo allinearci a te, essere avvolti dalla tua grazia e dal tuo amore. Grazie Gesù. Amen.